Ti avrei voluto dire, ti sto pensando. E non si può restare fermi ai pregiudizi, che la vita è troppo breve per non riscoprirsi, che possiamo avere un'ultima occasione per restare insieme senza una ragione. Ma se non rischi vuol dire che forse in fondo non vuoi. Stammi vicino da togliermi il fiato stanotte, stammi vicino quando tutti diranno di stare lontano da me, che queste braccia sono così stanche, stanche di respingerti ora, che queste braccia ti stanno aspettando ancora. Ti avrei voluto dire che a volte mi viene voglia di chiamarti in piena notte, e scusa se mi freno ma non ho la forza, ma ho sempre voglia di stravolgerti la vita, di lottare contro tutti per te. E mentre ascolti queste mie parole in fondo lo so che dentro sorridi. Stammi vicino da togliermi il fiato stanotte, ti avrei voluto sussurrare. Stammi vicino quando tu togliermi il fiato stanotte.